Nella chiesa della Madonna della Consolazione c'è la Santissima Madonna della Consolazione, la patrona di Reggio. Non Reggio Emilia, dico Reggio Calabria, ma la pregano in tutta la Calabria, pure fuori. La Madonna è bella, la pittarono, con la corona d'oro sopra i capelli neri neri. Non ce la fecero la corona d'oro, non ce la fecero la statua con la corona d'oro, se no se la robavano la corona d'oro, quelli di Catanzaro, che quelli si stanno arrobando tutto. Ma se ci facevano la statua di legno ce l'avevano a fare per forza pure la corona d'oro. E per non farci la corona d'oro, che se la robavano di certo quelli di Catanzaro, fecero la pittura della Madonna e non la statua, fecero il quadro. Così non ce la possono rubare la corona d'oro da sopra il quadro, quelli di Catanzaro. Infatti se ne sta sempre là, sopra la testa della Vergine. E nessuno ce la roba perché è pittata sopra la testa la corona d'oro. Se viene qualcuno di Catanzaro la piglia in culo. Fotteteci il capoluogo, ma la corona d'oro della Madonna non ve la potete futtiri. Alla testa della Madonna è una bella corona ci sta, 12 stelle attorno attorno è la Madonna della Pietà. Rione, Eremo, là c'è la chiesa con la Madonna che consola, ci consolò dai turchi, dalla pestilenza, dalla carestia, ci salvau sempre. E il primo di agosto del 1970 i rivoltosi entrarono nella chiesa, si pigliarono il quadro della Vergine e si partirono in processione per Corso Garibaldi, sotto sotto fino a Piazza Italia nel cuore di Reggio. U Previti davanti alla porta non voleva, cercava di ripigliare il quadro, di riportarlo in chiesa, ma né intelligenti se lo trascinarono appresso. Dice che i poliziotti davanti alla chiesa volevano dare mazzate a tutti quanti per ripigliare il quadro e telefonarono all'arcivescovo. Monsignore, per ripigliare la Madonna, vi ma dare manganellate alle genti, che qua solo le botte servono. E l'arcivescovo Ferro, che nonostante nel mese di agosto aveva un raffreddore forte, rispose al telefono ai poliziotti: lassateli stare, non avete a dare manganellate, che le botte non servono a niente. Quando passarono sotto casa mia, sentì le grida delle genti, ma facei al balcone e vidi l'arcivescovo Giovanni Ferro, con l'umaccatura alle mani per il raffreddore forte che aveva, insieme a tutto il popolo di Reggio che andavano diritti al Duomo. E c'era il sindaco, Battaglia Pietro, faceva pessetti, era della Democrazia Cristiana, ma faceva come se fosse stato comunista, l'arcivescovo, il quadro della Madonna che consola. La gente appresso alla Madonna che piangeva e gridava forte contro lo Stato, contro i poliziotti, li chiamavano forte assassini, assassini! E gridavano contro tutti i partiti, contro l'Italia, gridavano e cantavano alla Madonna e piangevano. Mira il tuo popolo, bella signora, che pien di giubilo oggi ti onora. Reggio Calabria, grazie alla Madonna, era capitale di regione da quando l'uomo nacque, prima dell'Arca di Noè, da quando si fece l'umundo. Quando succedevano questi fatti che vi racconto, faceva 170.000 abitanti, la Madonna raccoglieva a tutti. Volete venire a stare di casa a Reggio? Trasiti. Reggio Calabria. Ma quale città dell'Italia avevi nome e cognome? Solo noi. Reggio di nome, Calabria di cognome. Quando ce lo dicevo a Carmine mio, che Reggio Calabria era meglio di Catanzaro, che teneva solo il nome come se era figlio di nessuno, se la pigliava, sai, rispondeva: Catanzaro è giusto in mezzo alla Calabria, è il centro del mondo Catanzaro, Reggio periferia, sta alla punta dello stivale, sempre in tal'acqua salata dell'umari. E io ci rispondevo: Reggio sta alla punta della scarpa, va bene, ma è proprio quella punta della scarpa che se tu devi dare un bel cacio in culo a qualcuno di Catanzaro, ce lo dai con quella parte della scarpa dove sta Reggio, la punta, che quando dai un calcio con la punta fa male assai, la punta è punta. E lui, Carmine, rideva a sta frase, rideva assai sempre quando ci parlavo della punta della scarpa che faceva male. Lui, Carmine, era bravo assai. Il padrone del bar dove travagliava qua a Reggio ce lo diceva sempre davanti a tutti: Iaconis Carmine è lo meglio banconista che pi mai avuto, peccato solo che è di Catanzaro. E lui, Carmine, rideva dietro il bancone dove lavava piattini, tazze di caffè. Iaconis Carmine aveva 25 anni nel 1971, era bello come il sole sullo stretto. Dopo 14 mesi di fidanzamento ci stavamo per sposare, era pronto tutto, pure la bomboniera era pronta. Che a me non mi piaceva assai, la bomboniera che ci piaceva a Carmine. Voleva tre rose rosse, piccole piccole, di stoffa, con i confetti celesti. E la scritta vicino alle rose: Carmine e Pina sposi. 10 ottobre 1971. Tutti invitati alla chiesa della Santissima Madonna della Consolazione. Carmine voleva le rose perché quando ci conoscemmo con Carmine era la sera tardi di domenica 5 luglio 1970. Il giorno prima era stata Santa Elisabetta del Portogallo. In piazza Duomo parlava il sindaco Battaglia. C'erano tante di quelle teste nella piazza. Sembrava la santissima processione della Madonna della Consolazione. Il sindaco gridava «Reggio non rinuncia alla guida della regione!» Che erano uscite da poco le regioni. Prima c'erano state solo le province, da qualche settimana c'erano le regioni. Ogni regione doveva avere una capitale di regione, con tutti gli uffici, i responsabili, gli assessori, il presidente di regione che doveva stare nella capitale della regione, che a Roma avevano stabilito che la capitale della Calabria doveva essere Catanzaro. E mo perché Catanzaro? Che non aveva manco il cognome. E poi Catanzaro faceva 70.000 abitanti, e Reggio Calabria 170.000. Era più giusto fare a Reggio Calabria capitale della Calabria. Ma niente, lo Stato, la politica sporca che facevano a Roma, dovevano fare capitale a Catanzaro. E il sindaco Battaglia dava battaglia nella piazza. Un cimente nei piedi sopra la testa! Colombo è capo del governo e comanda a Roma! Quelli di Roma comandano a Roma, in Calabria comandiamo noi! Catanzaro non può essere capitale della Calabria perché è piccola, ha avuto tanto, Cosenza ha avuto l'università. La capitale deve essere Reggio, che non è più mai niente. Noi reggini abbiamo un cuore solo, occuperemo le strade, faremo venire la fine del mondo. Reggio è capitale da secoli. E la gente a battere le mani al sindaco Battaglia. 7.000 persone che battevano le mani al sindaco, eppure io battevo le mani al sindaco. 7.000 persone che battevano le mani al sindaco, tranne uno, che era vicino a me, se ne stava con le braccia al petto e non batteva mai le mani. 7.000 persone che battevano le mani e lui niente, non batteva le mani solo lui. Mi guardava negli occhi e niente. E io a battere le mani più forte e lui mi guardava. Avevo una rabbia che non batteva le mani. Perché un batti i mani per Reggio Capitali? Perché i mani voglio battere solo per te. E Diaconis Carmine si gira verso di me e comincia a battere le mani a me come se io ero il sindaco. Mo la gente non batteva più le mani, che il sindaco parlava un'altra volta, erano tutti quanti là, fermi, cita, a sentire il sindaco Battaglia che parlava. E Diaconis Carmine batteva le mani a me. Quelli che erano vicino a noi due si girarono a guardare a noi e io mi feci rossa rossa in faccia, come le rose rosse che aveva fatto fare Carmine come bomboniera per lo sposalizio, che perciò Diaconis Carmine voleva le rose rosse come bomboniera. 7.000 persone che stavano ferme a sentire il sindaco che parlava e stu scemo a battere le mani a me, pensai, se mi vede mio padre senti, che mio padre era stato uno dei più rivoluzionari per Reggio Capitale, c'era pure lui da qualche parte nella piazza, e Diaconis Carmine batteva le mani a me, uno dietro a noi gridò, e basta cusse mani, eppure io mi girai e lo guardai in faccia e disse, e basta mo, e Diaconis Carmine mi disse ridendo e continuando a battere le mani, si russa come una rosa, sicuro ti chiami Rosa, non mi chiamo Rosa e basta cusse mani, ti chiami Rosa, non mi chiamo Rosa e basta cusse mani, dimmi come ti chiami e mi fermo cu le mani. Io non risposi e Diaconis Carmine si mise a battere le mani forte, ma forte, che la gente si girò tutta quanta. Pensai che era capitata vicino più scemo, più cretino di tutta la piazza. Dimmi come ti chiami e mi fermo con le mani. Mi chiamo Pina! Smise di battere le mani e mi disse piacere, Diaconis Carmine. E ora lo so che quel 5 luglio 1970, in mezzo a 7.000 reggini, era veramente capitata vicino più scemo, più cretino di tutta la piazza. Diaconis Carmine era l'unico che non era di Reggio Calabria, era di Catanzaro. Perciò non batteva mai le mani. Da quel giorno Diaconis Carmine mi ha sempre chiamato Rosa, pure se mi chiamo Pina. Quando decidemmo per la bomboniera disse «Ti ho conosciuta che eri rossa come una rosa, come bomboniera voglio una rosa». Ci piacevano i brindisi a Carmine. Ai matrimoni tutti ce li chiedevano «Carmine, fanno brindisi». A lui ci piaceva, era barista, ma con le rime come brindisi sembrava un poeta. «Questo vino è bianco e fino alla salute della rosina. Questo vino è rosso rosso, me lo bevo e non cado nel fosso!» A me mi piacevano i brindisi di Carmine, ma a mio padre non ci piacevano. S'arrabbiava quando Carmine attaccava così i brindisi. Mio padre era operaio, era pratico, ma leggeva il giornale. La Gazzetta del Sud sempre sotto braccio. Sti brindisi di Carmine, a papà che sapeva ogni cosa, ci sembravano una scemenza. Ma la verità è che i brindisi di Carmine non erano brutti. Mio padre non sopportava i brindisi. E allora fino a che a fare il brindisi era uno di Reggio Calabria, ancora. Ma se poi a sopportare, oltre a sopportare il brindisi, doveva sopportare il brindisi di uno di Catanzaro, allora mio padre lo interrompeva sempre e ci diceva «Meglio la peste, cali brindisi di uno di Catanzaro». E Carmine faceva tale quale il brindisi, perché teneva una faccia tosta e diceva «La capitale può essere Reggio, Cosenza, Catanzaro o Lamezia, ma se a comandare sono i soliti ladroni, vinceranno sempre i padroni!» Mio padre non brindava mai ai brindisi di Carmine. Tutti truzzavano i bicchieri, ma mio padre no. Questo perché Carmine era di Catanzaro. Mio padre ce la teneva a morte. Era come un odio che aveva covato. Papà cominciò a parlare male di Catanzaro il 16 marzo 1969, quando per la prima volta si seppe che Catanzaro era capitale della Calabria e non Reggio. E due giorni dopo se ne andò insieme agli studenti a bloccare la ferrovia per protestare. Allora tutti si pensavano che la cosa finiva. Invece cominciarono le bombe. Prima, 20 aprile 1969, scoppiò una bomba alla sezione della Democrazia Cristiana di Reggio Calabria. Se ne rimase tutto storto lo stemma che era appeso sopra la porta e la croce da sopra lo stemma sembrava che se ne cadeva, ma non cadeva. E le vecchiarelle che passavano si facevano la croce, ma non per la bomba, per lo stemma. Che non sia mai se ne cadeva, che vita dovevano fare più quelle vecchiarelle. E ci mandavano il bacio con la mano allo stemma per incollare meglio la croce. Il 20 aprile del 1969, davanti a quello stemma che pendeva, mi incollai con Scordo Antonella. Per la prima volta incontrai Scordo Antonella, la sorella di Scordo Franco. Come parlava bello, sapeva tutto. Fu lei che mi disse delle cose brutte che succedevano. Cominciavano a succedere cose brutte non solo a Reggio, ma per tutta l'Italia. 12 dicembre 1969. Scoppiano due bombe. Ore 17 a Roma, ore 18:30 a Milano. Davanti alla Banca dell'Agricoltura, disse Scordo Antonella, strage di Piazza Fontana, 17 morti e 88 feriti. Disse che qualche giorno appresso avevano arrestato a Valpreda Pietro, un amico anarchico del fratello, che dicevano che era stato lui che aveva messo le bombe. E Pinelli Giuseppe lo interrogarono nella questura di Milano. E mentre lo interrogavano, i carabinieri dissero che a Pinelli ci mancava l'aria. Corse alla finestra e si buttò giù di sotto. S'ammazzò solo, per l'aria. E io me ne andai a pregare davanti alla Madonna della Consolazione, perché come raccontava le cose Scordo Antonella sembrava la fine del mondo, l'Apocalisse di San Giovanni. Oh Madonna mia bella, fallo passare subito, stanno 1969. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E l'anno passò, arrivò il 1970, e peggio ancora. Lavoro non ce n'era, i calabresi se ne partivano per fare l'operai al nord. Pure a Reggio si facevano la valigia, la miseria arrivava forte. Davanti alla Madonna della Consolazione aumentavano le candele ardenti. A febbraio ce n'erano assai, a maggio ce n'erano più assai ancora. Che quando aumentano le candele la cosa è preoccupante assai. Ma il 14 luglio del 1970 la gente le candele le cominciò a mettere sul pavimento, perché il mobile delle candele non ce ne andavano più, per quante ce n'erano di candele ardenti. Il giorno prima Catanzaro era stata fatta capitale della Calabria. I consiglieri regionali erano andati tutti quanti a Catanzaro a festeggiare e la gente accendeva le candele a Reggio. La mattina del 14 luglio 1970, dopo la messa che vidi il pavimento pieno di candele, andavo a pigliare il pane. Passando davanti alla sezione della Democrazia Cristiana, quella della bomba, vidi che la croce che era rimasta storta era caduta a terra. E una vecchiarella la teneva in mano, cercava di fermare qualche giovane per fare riattaccare di nuovo la croce sullo stemma della Democrazia Cristiana. Ma nessuno si fermava e io mi feci la croce tre volte per la paura, infatti arrivata 200 metri più avanti. Vidi la guerra. La guerra era arrivata a Reggio. Barricate in mezzo alle strade, barricate fatte con le macchine messe di fianco, capusutta, si vedevano le ruote che giravano. La guerra era arrivata a Reggio, copertoni di macchine che ardevano, fumo, grida della gente, gridavano forte, volevano incendiare il municipio di Reggio. Nessuno che ci credeva più nello stato dell'Italia. Arrivata a Piazza Italia, tutte le boutique chiuse. Vidi che la polizia che era arrivata da Roma, da Taranto, da Vibo, da Messina, da Palermo, erano tutti intorno alla piazza. In mezzo alla piazza c'erano 7.000 persone. E la polizia con gli elmetti e i bastoni pesanti comincia a dare mazzate sopra le teste. Le teste si spaccavano, usciva il sangue. E buttavano bombe che facevano piangere la gente. Lo fumo di ste bombe. Che peccato. Madonna mia bella. Aiutaci a tutti. E la polizia picchiava forte, la gente correva, incendiava tutto quello che trovava. Comincio a correre forte, pure io, più forte che potevo per non pigliare mazzate. Pensavo se mio padre era sopra le barricate. E vidi appesi ai fili della luce tre pupazzi di pezza. L'avevano impiccati. Sopra la camicia c'era scritto il nome desti impiccati. Mancini, Misasi, Pucci. Mancini era di Cosenza, socialista. Misasi e Pucci erano democristiani. Che paura a guardare quegli impiccati. e correvo forte, pensando piena di terrore che mio padre diceva che a Reggio c'era il maggior numero per porto d'armi, per pistole e fucili di tutta la Calabria. Io pensavo che quei fucili nessuno li doveva pigliare. E trovavi proprio io, là, a terra, steso a un uomo che moriva. La camicia bianca piena di sangue. E mi avvicino piano piano e lo tocco forte. Svegliati! Svegliati, figlio bello! Gli occhi spalancati e persi. Si muove con una mano. Chiamai gente, lo mettemmo in un portone. Madonna mia, che succede io? Dopo qualche minuto aprì la bocca e morì. L'abate Bruno, 46 anni, ferroviere. Quando la gente capì della morte di l'abate Bruno per le botte della polizia, tutti sotto la questura volevano incendiare la questura. Fuoco, fuoco, fuoco! Gridavano contro Santillo, il questore che aveva dato l'ordine di picchiare la gente. Me ne tornai a casa con una mano sporca del sangue di l'abate Bruno, che mia madre la vide e me la lavava piangendo, che io ci raccontava tutte le cose e pensava a papà, che era solo sopra le barricate. L'unico che non mi dava pensiero era Carmine, perché Carmine, quando succedeva qualche cosa, tanta era la paura, si impertusava nello sgabuzzino del bar dove travagliava qua a Reggio e non usciva più. A casa da poco avevamo comprato la televisione, vedemmo il telegiornale. Ma nessuna immagine di Reggio, manco una parola. Per la Rai a Reggio non c'era niente di grave, manco l'abate Bruno era morto, come invece era morto. Mo che lo vengono a sapere, povera famiglia sua, senti li pianti. La mattina appresso venne a casa nostra Carmine, ci disse a papà che papà la notte tornò, che aveva paura di stare solo la notte, che voleva dormire con noi a casa nostra. E quella sera mio padre fece il primo brindisi insieme con Carmine e decidemmo che ci sposavamo a ottobre. E Carmine disse: a ottobre ci sposiamo, con Reggio Capitale. A mio padre ci scesero subito le lacrime. È dispiaciuto che perde la figlia, pensai. Invece no, piangeva per Carmine, che aveva detto della capitale. E lui, papà, ci disse a Carmine che la capitale non c'entrava niente, che la Calabria era povera, che le genti se ne partivano alla stazione per sempre, che i figlioli non trovavano fatica, la mafia era la regina e a Roma non se ne fotteva niente nessuno del sud. Salute. Da quel giorno Carmine si mise a dormire a casa nostra, che la sera parlavamo del matrimonio, della bomboniera, della casa dove dovevamo andare a stare. E diceva pure: speriamo che passa subito sta tragedia, se no un barro rimane chiuso e lo pagione manco mi paga. I giorni appresso ci furono i funerali di l'abate Bruno. Furono una tragedia per tutti, la gente buttava fiori dai balconi. Ma la Rai d'Italia non venne. Come s'arrabbiò Scordo Antonella, la sorella di Scordo Franco, che era giovane ma sapeva cose assai, ripeteva le cose che sentiva dal fratello Scordo Franco, che diceva il fratello: la Rai non viene a ripigliare i funerali, ci viene la televisione americana, la televisione della Norvegia. Che vergogna, ma la Rai la comandano i politici di Roma. Scordo Franco era sempre sopra le barricate, diceva a Scordo Antonella che il fratello stava sopra le barricate insieme a Casile Angelo e Arrigo Gianni, che erano anarchici, e dicevano che tutti i politici erano imbrattati nella merda, che l'Italia era in mano ai fascisti, che erano diventati democristiani. E Carmine, che stava con noi perché il bar era chiuso per le barricate, diceva che al bar l'aveva conosciuti a tutti, che erano simpatici, che erano bravi figlioli, stavano sempre seduti al tavolino del bar ed erano Scordo Franco, Casile Angelo, Arrigo Gianni, Bort Annalise, che era la mogliere di Arrigo Gianni, era tedesca, bionda, di Amburgo, e Lo Celso Luigi, che era di Cosenza ma che stava sempre a Reggio. Carmine mi aveva raccontato che Arrigo Gianni ci aveva raccontato nel bar del suo matrimonio con Bort Annalise. Diceva che Arrigo Gianni era anarchico e che per questo l'avevano arrestato insieme a Casile Angelo per la strage di Piazza Fontana a Milano, che i carabinieri pensarono che erano stati pure loro a mettere la bomba, ma poi l'avevano rilasciati, che non c'entravano niente. E la sposa, Bort Annalise, che era cresciuta in un orfanotrofio, dopo che avevano arrestato agli anarchici Valprede e a tutti gli altri, l'avevano cacciata dall'Italia. Non ci poteva ritornare se non si sposava. E allora Arrigo Gianni se la sposava, con la delega al municipio, perché non era in Italia la sposa. Carmine rideva e diceva che ad Arrigo Gianni ci serviva il certificato di matrimonio per fare ritornare da Amburgo Bort Annalise, che la faceva diventare cittadina italiana. Carmine rideva e diceva che ad Arrigo Gianni il 28 aprile si doveva presentare al municipio per sposarsi con Bort Annalise, ma lei era in Germania. E allora che succedì? Che Arrigo Gianni si presentò al comune con sotto braccio il cugino Tonino, con una parrucca bionda. Sembrava una tedesca. E il funzionario comunale li dichiarò marito e moglie. E così Bort Annalise diventò Arrigo Annalise per quei pochi mesi che doveva vivere ancora. Passò qualche giorno e le cose si calmarono un poco, ma le barricate c'erano sempre, bloccarono la ferrovia a Villa San Giovanni, il porto di Reggio, e così la Sicilia era isolata. A Reggio due rioni furono isolati, Santa Caterina e Sbarre. Al centro invece qualche negozio aprì, e aprì pure il bar di Carmine, ma Carmine aveva paura. E nel bar andavano Scordo Franco, Casile Angelo, Arico Gianni, Arico Annalisa e Lo Celso Luigi, che era di Cosenza ma che stava sempre a Reggio. E poi arrivò il 22 luglio 1970. E successe una cosa più brutta della morte di l'abate Bruno. Il treno La Freccia del Sud uscì dai binari vicino Gioia Tauro. Una tragedia, disse Scordo Antonella, 6 morti e 139 feriti. E disse pure, la polizia ha chiuso l'indagine, dicono che è stato un incidente. Nessuno pensava, disse Scordo Antonella, che erano stati i fascisti a fare l'attentato del treno La Freccia del Sud, per creare confusione, approfittare della confusione e fare un colpo di stato fascista che partiva da Reggio Calabria. Ma che erano stati fascisti a fare l'attentato del treno lo pensavano i 5 amici anarchici, Scordo Franco, Casile Angelo, Arico Gianni, Arico Annalisa e Lo Celso Luigi. Eppure Carmine, che nel bar li sentiva parlare, cominciava a pensarci. Carmine sentiva sti 5 che parlavano nel bar e mi raccontava a me che a fare deragliare il treno La Freccia del Sud erano stati quelli di Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie e del Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese, il Principe Nero. Mi diceva così, Carmine mio. A fine luglio Carmine mi disse che i 5 dicevano nel bar che il governo aveva paura di queste barricate a Reggio e per convincere la gente a togliere le barricate, a tornare nelle case, Emilio Colombo, che era presidente del governo a Roma, aveva inventato un pacchetto regalo per Reggio. Aveva ideato il governo di fare a Reggio tante industrie, da dare lavoro a tanti reggini per 3 secoli, che il governo a noi di Reggio ci regalava l'industria e noi di Reggio ci davamo regalata la capitale a Catanzaro. E mio padre aveva detto che le industrie siderurgiche promesse a Reggio erano finte e comunque il governo non si poteva accattare persone con le industrie. O Reggio doveva essere lasciata in mano alla mafia. A fine luglio Scordo Antonella mi disse che a Reggio era nato un comitato che tutti chiamavano Boia chi molla e il capo era un fascista dell'MSI che si chiamava Ciccio Franco. Che io mi sbagliavo sempre e lo chiamavo Franco e Ciccio. Quelli simpatici dei film alla televisione. Quello che apre sempre la bocca e fa sempre muovendo un braccio. Poi il 30 luglio si riunì a Catanzaro sto consiglio di tutta la regione Calabria e fu eletto presidente il socialista Mario Casalinuovo, che disse Scordo Antonella è un uomo di Giacomo Mancini, il socialista di Cosenza che comanda a Roma, che si è portato la Salerno Reggio Calabria a Cosenza, che tutti i camionisti lo bestemmiano, che lo fa allungare di 80 chilometri. E allora il popolo di Reggio capì che non c'era niente da fare più e fece più barricate ancora, tanto che il governo se l'aspettava, disse Scordo Antonella, visto che avevano mandato 6.000 carabinieri e poliziotti con le tute per fare la guerra, che Reggio, la città della Fata Morgana di San Paolo Apostolo, era diventata il Vietnam, disse Scordo Antonella. E il popolo di Reggio andò a pigliare la Madonna e se la portò in processione per tutta Reggio con 44 giorni d'anticipo, che la Madonna usciva a settembre e non a luglio. E davanti alla Madonna andava Franco e Ciccio, il fascista. Aprì alla vucca e gridava alla folla, movì all'ovrazza avanti al reto. Evviva Maria, Maria, evviva, evviva Maria, e chi la creò? Carmine. Una sera di agosto del 1970 parlavamo del matrimonio e scrivemmo sulle buste degli inviti tutti gli indirizzi. 57 invitati della provincia di Cosenza, 213 invitati di Reggio Calabria e provincia, 123 invitati di Catanzaro e provincia. Che come ci dovevano stare nel ristorante di Reggio Calabria tutti assieme? Quella sera Carmine mi disse che i 5 nel bar avevano cominciato un'inchiesta, che volevano scoprire i nomi dei fascisti che avevano pensato e realizzato l'incidente al treno La Freccia del Sud. Dicevano che erano quelli di Ordine Nuovo, che c'entrava la massoneria di Gelli e Cefis, che sto Cefis, dopo che era morto Mattei, il capo del petrolio italiano, Cefis aveva preso il posto suo, Cefis ora era il capo. Io non ci capivo niente. E Carmine diceva che i 5 nel bar avevano una macchina fotografica speciale, avevano fotografato tutti i fascisti che a Reggio stavano sopra le barricate, provocavano la reazione della polizia per fare disordini. E Scordo Antonella diceva che a Roma sto grande fascista aveva fatto parte di una divisione speciale dei fascisti, la decima MAS, disse Scordo Antonella, Junio Valerio Borghese, chi du puerco, è stato comandante della decima MAS a Roma e vuole fare un colpo di Stato. Generale e colonnelli italiani vogliono fare un colpo di Stato, come è successo in Grecia, e partono da Reggio Calabria. e i cinque nel bar dicevano che il treno La Freccia del Sud era uscito dai binari perché i fascisti l'avevano tolti i binari. Eppure la strage di Piazza Fontana a Milano l'avevano fatta loro i fascisti e avevano accusato gli anarchici e Pinelli l'avevano ucciso. E mentre i cinque andavano nel bar dove lavorava Carmine, che Carmine non poteva spiare più quello che si dicevano, perché si mettevano sempre vicino al jukebox e mettevano sempre la stessa canzone che parlava in inglese, mi disse Scordo Antonella che era dei Beatles e si chiamava The Long and Grinding Road. Ammettevano continuamente che Carmine tornava a casa con un male capo. Però quando io andavo nel bar, Carmine dava un cazzotto piccolo al jukebox, faceva saltare sto disco e metteva quello che mi piaceva a me, Finché la barca va, di Orietta Berti. E pensare che nel bar suonava il jukebox, che Carmine non poteva spiare più quello che si dicevano i cinque, che si passavano fotografie, scrivevano, e fuori c'erano le barricate, i poliziotti, i carabinieri e la guerra. Il 17 settembre 1971 non me lo scorderò mai. Arrivai nel bar che c'erano i cinque amici di Carmine, Scordo Franco. Era bello assai, e Carmine da dietro il bancone mi vide, andò al jukebox, mise i soldi, mise una canzone bella ma bella, La lontananza di Domenico Modugno, e cominciammo a ballare nel bar, io e Carmine. Arico Gianni e Arico Analise si abbracciarono e si misero a ballare, e dopo un po' pure Lo Celso Luigi e Casile Angelo si abbracciarono e si misero a ballare, e ballammo tutto il disco. Proprio quel 17 settembre alle ore 19:30 successe un'altra cosa brutta. Incendiarono il deposito locomotive della ferrovia, ci fu uno scontro tra carabinieri e reggini. Un carabiniere fu ferito, Morabito Giuseppe. Un altro carabiniere fu ucciso, Curigliano Vincenzo. E un reggino, Campanella Angelo, padre di sette figli, fu ucciso pure lui. Tanto che la sera, finalmente, il presidente della Repubblica Saragat parlò alla televisione e disse, tutto preoccupato, dei morti di Reggio Calabria. Io avevo ancora nella testa La lontananza di Domenico Modugno e vidi con gli occhi miei che la gente, visto che avevano ucciso a Campanella Angelo, spaccavano le vetrine delle armerie, si arrobavano pistole, curtielli, fucili e si preparavano alla guerra più guerra. Nel bar di Carmine lo sentii proprio io, a Scordo Franco, che disse che il governo, per fermare gli scontri e le morti, aveva promesso il quinto centro siderurgico alla provincia di Reggio e che Colombo aveva scritto che la nomina della capitale della Calabria spettava ora al Parlamento italiano, non alla regione Calabria, e tutto tornava alla partenza. E Scordo Franco disse ad alta voce nel bar, che pure il jukebox era fermo, disse: la capitale a noi non ci serve, noi dobbiamo lottare per sconfiggere l'emigrazione, la disoccupazione, la fame, la miseria. Quella sera nessuno mise niente di canzoni, Carmine non mise La lontananza, e sentì che Arico Gianni disse ai compagni suoi: la settimana prossima dobbiamo andare a Roma a parlare col giudice Minasi, abbiamo scoperto cose che faranno tremare l'Italia, dobbiamo portare tutti sti documenti. E sti documenti, rullini fotografici, fotografie, tanti fogli scritti, erano sopra il tavolino del bar dietro il jukebox. Il 26 settembre arrivò, e come se arrivò, il giorno di partire per Roma dei cinque amici di Carmine, che il bar sembrava vacante senza di loro. E nella mini minor gialla fino a Roma, disse Scordo Antonella, come ci dovevano stare i cinque amici pigiati come sardine loro e le carte che dovevano portare al giudice che li aspettava. Ma basta che arrivano, disse Scordo Antonella, che ieri sera sono arrivate minacce per telefono e mio padre è preoccupato assai. La mini minor, che sull'autostrada del sole non superava gli 80 km all'ora, fu nel tratto tra Ferentino ed Anagni, alle 23:25 precise, in salita, fece la botta. La polizia disse che la mini minor era finita con il muso addosso a un autotreno con il rimorchio, che erano morti tutti e cinque, morti tutti per incidente casuale, disse la polizia. Pure i due fratelli Aniello, i camionisti dello scontro, dissero che fu casuale. Li portarono al cimitero i cinque anarchici calabresi e li seppellirono. E le carte che dovevano dare al giudice, sparite, non furono trovate mai. Assassini, fascisti assassini, democristiani assassini, piduisti e massoni assassini, così gridava forte Antonella. Scordo Antonella ancora oggi continua a dire che la botta sulla Mini Minor non fu davanti, come una macchina che piglia una botta forte col muso, ma che la Mini Minor aveva due botte forti ai due lati, che erano due i camion che se l'erano messa in mezzo, che poi la Mini Minor non può tamponare con cinque persone a bordo in salita un camion, ma che i due camion se l'erano messa in mezzo come la mortadella nel pane. Scordo Antonella dice ancora che i due fratelli Agnello, i camionisti dello scontro, la polizia li mandò a casa come se non era successo niente. Assassini, fascisti assassini, democristiani assassini, piduisti, massoni assassini. Così gridava forte Antonella. E passò ottobre, che diventò sindaco a Palermo Ciancimino proprio a ottobre, che mio padre disse fascisti, democristiani, massoni, mafiosi e servizi segreti americani, chissi comandano l'Italia. E l'esercito portò i carri armati, a Reggio c'erano più di 15.000 agenti. E Scordo Antonella disse, è chiaro, il piano dei fascisti, arrivare a Reggio e a Milano coi carri armati per poi arrivare a Roma e pigliarsi l'Italia. E Carmine nel bar lavorava con il terrore addosso, era sempre di Catanzaro, e guardava il tavolino vacante dove si assettavano i cinque della Mini Minor. E la polizia cominciò a fare ordine, giravano con i carri armati per le strade, toglievano le barricate, la gente tremava. Diventai assai amica di Scordo Antonella. Che il tempo passava e lei parlava sempre del fratello. Passarono due mesi e parlava delle carte che erano sparite. Arrivò giugno e parlava del fratello, ma a giugno era anche contenta per me. Tanta felicità voglio pettie, che io ci raccontavo dei preparativi dello sposalizio con Carmine. Era pronto tutto. Avevamo deciso pure il ristorante, Sala Regina. Il 10 ottobre ci sposavamo. La paura aumentava, ma nonostante tutto eravamo felici. Ci sposavamo nella chiesa della Madonna della Consolazione. Erano pronti i vestiti, la bomboniera era pronta. La testimone era Scordo Antonella. Il 17 settembre 1971, mancavano pochi giorni al matrimonio. Avevamo appuntamento con Carmine sul ponte Calopinace alle 5 della sera, che dovevamo comprare un pappagallino da tenere nella casa nostra. Lì vicino al ponte c'è un negozio di uccelli. E io avevo fatto tardi e camminavo veloce veloce per la strada. E lungo la strada l'esercito, i carri armati, la gente inferocita. Arrivai vicino al ponte e vidi tanta gente ferma sopra il ponte. E la polizia, chi scappava, una confusione. Che succedio? Domandava alla gente, ma nessuno si fermava, tutti che scappavano e gridavano contro la polizia. Ammazzarono figliolo su Proponte, i poliziotti ammazzarono figliolo su Proponte. Le gambe me le cominciai a sentire pesanti. Camminavo che cominciavano a sentire chiunnenti e pensavo a Carmine. E lo cominciai a chiamare, Carmine, dove sei? Carmine. Ma non si vide a niente, la polizia che sparava bombe lacrimogene, fumo, gomme di macchine che bruciavano, un si divide a niente, chiamava Carmine, via l'affanno, chiamava, ma niente, Carmine non c'era, Madonna della Consolazione, aiutami, aiutami, Dio, aiutami, fammelo trovare. Arrivai al punto dove stavano tutti e vidi un corpo steso a terra, con la faccia a terra morto. Ma avvicinai a spinte, spinte forti davanti a quel corpo e lo vidi. Lo cominciai a chiamare, inginocchiata vicino a lui. Carmine, rispondi. Carmine, ma che fai? Carmine, avemo i vestiti del matrimonio che ne aspettano. Le bomboniere, Carmine, su belle, davimo tante, pronte. Carmine, rispondi. Un mi lassare sola. Ma niente, non rispondia. E lo toccai. Ci pigliai la testa e la girai. Ci ne sciullo sangue da vucca. Un mi lassare sola, ma caiehare a Reggio sola sola. Ma nenti, un rispondio chiù, Carmine. Un rispondio chiù. De passaro tanti di anni. E la vita passa per tutti, e il passato, si fa sempre più passato e si scorda tutto. Per me invece la lontananza è come il vento e le cose non me fa scordare. Tante sono le cose che con Antonella Scordo abbiamo saputo in questi anni. A luglio del 1993 un pentito, Giacomo Lauro, ha rivelato che il deragliamento di Gioia Tauro è stato fatto dall''Ndrangheta su commissione dei fascisti. Uffici io l'esplosivo per la bomba, ma a bomba mi tiro Silverini Vito e Caracciolo Vincenzo. 3 milioni mi guadagnai per la bomba. Medese Matacena Amedeo. Pensaro tutti i fascisti. Tante cose abbiamo saputo con Antonella Scordo in questi anni. si è saputo che quella notte del 7 dicembre 1970, la notte dell'Immacolata, Junio Valerio Borghese ha comandato una rivolta contro lo Stato italiano. Si è saputo che dai cantieri edili di Orlandini nel quartiere Montesacro a Roma partirono fascisti armati. Altri partirono dalla palestra dei paracadutisti nel quartiere universitario, altri ancora andarono nel Ministero dell'Interno a Roma con 200 mitragliatrici e la Guardia Forestale pronti a sparare. Altri in camicia nera andarono sotto la RAI a bloccare l'informazione e i fascisti stavano sotto la RAI pronti a sparare con la stessa rabbia che Junio Valerio Borghese usava per uccidere i partigiani. Si è saputo che quella notte dell'Immacolata la rivolta fascista fallì. Antonella Scordo dice però che riuscì in pieno, senza nemmeno sparare un colpo, che i fascisti arrivarono al potere tale e quale, che furono integrati nella Democrazia Cristiana, che furono difesi dai servizi segreti americani che nascosero Junio Valerio Borghese in Spagna. Invece di arrestarlo, lo accomodarono in Spagna. Fu fatto pure un processo, ma finirono tutti assolti. Vergogna. Il giudice Salvini nel 1991 ha ascoltato le registrazioni di quelle notti e ha scoperto che i nastri sono stati tutti tagliati. Tagliati tutti i riferimenti a Gelli, a Cefis, alla massoneria, ai servizi segreti americani, alla mafia siciliana. Stava per partire un nuovo processo, ma Giulio Andreotti giustificò i tagli, dicendo che avevano tagliato parole inutili per arrivare prima alla verità. Ma quale verità? Si è saputo, a proposito di quei cinque anarchici che andavano sempre nel bar di Carmine Mio, si è saputo che i due camionisti dello scontro, i fratelli Agnello che schiacciarono quella mini minor gialla, erano operai di una ditta di Junio Valerio Borghese. Inoltre, il pezzo di terra dove passa quel pezzo di autostrada su cui fu schiacciata la mini minor apparteneva a Junio Valerio Borghese. Nella mini minor c'erano tutti i documenti raccolti, le prove. Erano in una borsa e quella borsa sparì. E quante altre borse spariscono in questa Italia? Quella di Pasolini, di Aldo Moro, di Borsellino. Nessuno le vuole trovare più, quelle borse. Altre borse continuano a sparire oggi, mentre sul lungomare di Reggio Calabria hanno fatto un monumento alla massoneria alto 3 metri. Il monumento l'hanno fatto pure ai fascisti. E Reggio, il sud, l'Italia, è lasciata in mano alla mafia nella politica. Le borse spariscono, con le borse spariscono le prove. Io so. Li so i nomi, li sappiamo tutti, ma non abbiamo le prove.